Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese. Quegli amici del principe che, rimasti a Napoli, si diedero da fare, come sempre accade, intorno ai due sposi per alleggerire loro il peso della felicità, ben presto vi riuscirono, non solo col noioso diffondersi in notizie di regali annunciati o fatti pervenire da Neville, si parlava di una villa in Calabria e anche di gioielli che cantavano per Elmina, per dire, in modo popolare, di un diadema della defunta Leopoldine, ornato da due zaffiri che a un semplice tocco facevano udire alcuni suoni di sogno. Tutte notizie assolutamente infondate, ma anche col malizioso insistere su alcune di queste notizie che rivelavano o dovevano rivelare nelle intenzioni una accentuata predilezione di Neville ora per l'uno ora per l'altro dei due innamorati. E questa, secondo noi, era piuttosto una falsità, per non dire iniquità, in quanto quel caldo cuore uscito direttamente dalle nubi, le folgori e, pensiamo, i fiori della terra che conclude l'Europa ai piedi del mare del nord, era di una specie più sottile, insondabile e quindi impensabile per i mediocri e i portieri del sogno. In quanto ugualmente Neville era diviso tra i due aspetti fantomatici della vita, il grande entusiasmo e l'infinita freddezza dell'essere. È inutile dire che l'entusiasmo, da lui privilegiato, era tutto per il tenero Albert, mentre Elmina si presentava al suo cuore torturato quale custode di una freddezza da alte notti d'inverno, resa tuttavia preziosa da quel segreto cui aveva alluso nelle fantasticherie del principe e di cui si era favoleggiato anche nella mancata visita alla tomba della signora Helm. Ma su ciò non insisteremo. Tali gradi di purezza non sono accessibili a tutti, intendiamo dire, e chi può comprenda, chi non può, continui a pensare ciò che gli pare. Invero giunsero da Liegi, per molte vie e per molto tempo, doni tali che la condizione finanziaria dei civili Dupré avrebbe potuto esserne sollevata mirabilmente, anche senza tener conto della grande sicurezza concessa dal vitalizio, cancellando così tutte le conseguenze della brutta caduta patrimoniale del guantaio, solo che quei tre ne avessero fatto un uso ragionevole. Fu donato ad Albert, non ad Elmina, un giardino in Calabria, dalle parti di Tropea, luogo divino. Vi era annesso un villino, e il tutto rappresentava un valore molto più consistente della villa fantasticata dai malevoli. Accompagnato poi da una rendita, per quei tempi, degna di una casa reale. Doveva servire a sostenere tutte le spese per il mantenimento della famiglia contadina che lo avrebbe curato e fatto fruttificare. Per Elmina giunsero poi di continuo, tramite il Ruscaia, che aveva messi particolarmente fidati, controllati com'erano dalla famosa Lente, giunsero stoffe che portavano il nome delle più accreditate manifatture belghe, sete e velluti, damaschi e merletti di inarrivabile bellezza, ma anche doni spiritosi, come pentole di porcellana fiorita e soffietti di piume radiose, tutte cose ugualmente inadatte a un realistico uso. Giunsero anche, tramite notar Liborio e altri personaggi del giro napoletano degli sposi, doni sontuosi per il guantaio, tra cui l'atto di proprietà e chiavi annesse di una nuova dimora alla riviera di Chiaia davanti alla neonata villa, e questa doveva, nelle intenzioni del donatore, passare a suo tempo tra i beni da trasmettere agli sposi e loro eredi. Così era indicato il movente, che in realtà movente era solo l'affetto. In breve, tutta Napoli seppe che i civili Dupré erano tornati di nuovo ricchi. Erano anzi ricchissimi, come mai il colonnello e la sua consorte, che li avevano con il testamento spogliati di tutto, avrebbero, con vero dispiacere, immaginato. e della defunta signora Helm e dei suoi 10 figli viventi e predatori di altissima qualità, esclusa per fortuna la povera Floridia, che era da tempo fuori di tutto, a questo punto non si parlò più, se non in tono di compassione e ironia. Avevano smesso di essere interessanti. Si riprese, tuttavia, dopo un po', a parlare con compassione di don Mariano e dei due sposi, tra i quali contrasti e dissapori, non certo a causa dei regali, ma nemmeno indipendentemente dalla scoperta benevolenza del principe ora per l'uno, ora per l'altro, dei due, non mancavano. Si diceva, fra l'altro, che il principe avesse avuto da Elmina, che non era così fanciulla come sembrava, ma già sui 35-40 anni, un bimbo, poi morto, soprannominato Cardillo, bimbo di incredibile bellezza e soavità, e altre infamie. E qui non sarà superfluo, per quella maggiore conoscenza del cuore umano, cui sempre deve mirare un narratore di storie, non sarà superfluo accennare un momento al reale stato d'animo dei due sposi e del guantaio in quel tempo, e proprio in rapporto alla mirabile fortuna che, di nuovo, causa la munificenza del principe, si era presentata davanti alla loro porta e posta, per così dire, in ginocchio in attesa di ordini. Tale stato d'animo, la risposta in breve che essi mostravano di poter dare a tanta bellezza, meraviglia e bontà del donatore lontano, fu presto riassumibile oltre qualche «Ah, guarda, veramente bello, a Neville non doveva scomodarsi tanto», oppure «Diglielo tu, Albert», o «Diteglielo voi, Albert», tu e voi a seconda dell'umore, in una specie di non luminosa indifferenza. Sembrava che nessuno di quegli esseri avesse mai tentato il più piccolo calcolo dei valori monetari nella sua povera mente. E se poteva anche stupire che un uomo d'affari, un mercante, un operatore d'industria, si direbbe oggi come messie civile, ricevesse con un sorriso malinconico l'atto di proprietà e la chiave d'argento finemente lavorato di un grandioso appartamento alla Riviera di Chiaia, non meno stupiva l'indifferenza totale di Elmina davanti a quei rotoli di seta e velluti che essa si affrettava, per non sciuparli, diceva, a rinchiudere in un vecchio armadio situato in un passaggio dietro la cucina. Rinchiudere, per modo di dire, poi, in quanto ciascuno poteva, almeno nei primi tempi domestiche e altre ragazze in aiuto di Ferrantina non mancavano, ciascuno poteva frugare in quell'armadio e prelevarne, se gli garbava, un taglio di seta o un rotolo di prezioso merletto o una tovaglia di fiandra, così di pentole e collane. Tutto giaceva abbandonato in altri armadi o su qualche alto scaffale del corridoio o la cucina, ogni cosa appena coperta da un telo che doveva riparare quelle meraviglie dalla polvere o dal fumo di carbone. Di Alberta Dupré a questo punto non ci sarebbe da meravigliarsi se già, ancor prima del matrimonio, aveva ignorato i vantaggi di rendite, vitalizi e privilegi del genere. Quel giardino, in Calabria, non era mai neppure andato a visitarlo, limitandosi a pregare Alphonse, quando avesse avuto un po' di tempo, di andare a darvi un'occhiata. Egli si era messo, fin dal primo giorno di matrimonio, dal pallonetto si erano subito trasferiti dopo la cerimonia a Sant'Antonio, si era messo con grande e quasi cupa energia a scolpire testine, lavorando proprio in quella stanza poco illuminata che aveva dato fastidio al principe nella sua visita alla casarella. Non vedeva altro. Tra statue neoclassiche di cui aveva preso l'incarico, gli erano state commissionate per ornare ville e istituti napoletani, e queste testine nelle sue giornate non c'era quasi un minuto di tempo per Elmina, che del resto non se ne lamentava, anzi sembrava assolutamente serena. Serena anche davanti al fatto che, invece di prendere lei, sua moglie, a modello delle famose testine, Dupré scolpisse continuamente una sola testina di bimbo, di grande bellezza, ma che Elmina non poteva proprio sopportare, manifestando la sua disapprovazione o indifferenza del tutto tacitamente. Si trattava di un bimbo ricciuto che non rassomigliava ad alcuno dei conoscenti o amici dello scultore e assolutamente neppure a Neville, come avrebbe potuto essere in una sua immaginaria infanzia, ma che, a detta di tutti, ricordava a ciascuno qualche cosa appena intravista o subito perduta e per sempre amata. Il volto era bello, molto bello, di grazia irreale, ma non era la bellezza in quel volto che l'artista voleva intitolare la joie, ciò che più veramente colpiva, quanto una espressione di disperata attesa o visione di un bene insopportabile per i sensi umani che quegli occhi miravano. E però era invisibile all'osservatore, quasi un raggio ricevuto dall'alto, o un bacio materno, o chissà che altro. Di questa joie Albert aveva già scolpito dal giorno stesso del matrimonio, che aveva passato lavorando, almeno 70 varianti, e sempre era tormentato dal pensiero di non aver ancora espresso tutto. «Ma che volete ancora esprimere, Albert? La creatura è bella e si vede, non vi basta?» diceva placidamente Elmina. «Oh, per quello! Si vede anche che gode buona salute e mangia di tutto!» rispose una volta con uno strano sguardo l'artista. «Per favore, Elmina, non mi fate perdere la pazienza», questa la nervosa conclusione dell'innamorato. Innamorato fino a che punto? E fino a che punto innamorata lei? Su quel matrimonio nessuno avrebbe potuto dire una parola, ma è anche vero che si poteva dire di tutto. Albert voleva bene ad Elmina, ed Elmina accettava senza scomporsi che egli le volesse bene, e vi erano anche giorni tempestosi o particolarmente teneri tra loro, ma giorni e notti sempre così, cioè senza importanza, in quanto era chiaro il fine, lo scopo del vivere dell'uno come dell'altro non era più, o non era mai stato, il vivere matrimoniale. Questo vivere era una circostanza ormai più che altro. Per un certo tempo tutto andò o sembrò andare abbastanza bene, ma accadde a un certo momento che la salute, forse l'equilibrio morale, là era quasi buio, di Don Mariano, che pure aveva resistito a tante scosse, vacillasse. Disturbi della salute, acciacchi dell'età, ma soprattutto una grande depressione, lo avevano obbligato a cedere l'ultimo negozio, anche se era dote di Teresina. Ma il ricavato fu messo scrupolosamente da parte per lei da venirne in possesso quando avesse raggiunto la maggiore età. Si aggiunga che egli, che mai si era deciso a occupare l'appartamento donatogli dal principe sulla riviera di Chiaia, trovando sempre scuse infantili per rimandare il trasferimento, alla fine vi fu costretto. Lo studio del pallonetto, un paio di stanze che gli erano state lasciate in uso temporaneo da una lettera di Brigitte Helm al suo legale, gli fu tolto da un giorno all'altro con una ordinanza del tribunale. E questa fu opera di Pasqualino Helm, il figlio minore di donna Brigitte, un mascalzoncello venuto a far parte della polizia borbonica e l'unico della tribù che si fosse presentato a reclamare la sua parte di eredità. Gli altri, probabilmente presi in altri commerci o affari vistosi in Africa, si misero agli avvocati. E per Don Mariano il distacco improvviso e definitivo dalla casa amata, da cui non si era allontanato neppure un'ora dopo la partenza di Elmina, fu tremendo. Egli ne uscì per trasferirsi nel nuovo appartamento a notte alta, poco prima dell'alba, portando con sé su una carretta, nascosti da un telo, solo alcuni oggetti personali, fra cui una scatola di cartone che sembrava contenere forse un po' di vento, tanto era leggera. Seduto accanto a quella scatola, pianse per tutto il tragitto, e poi, giunto a destinazione, balbettava parole, sia rivolte al cavallo, sia a qualche amico invisibile, che testimoniavano del suo sfinimento e grande confusione morale. Iniziava così la sua nuova e, ahimè, breve vita. si trovò a ridire, e chi si sarebbe trattenuto dal farlo, in questa occasione sulla nuova solitudine di Don Mariano e l'egoismo degli sposi. Ma le cose non stavano proprio così. Era stato Don Mariano, e lo sapevano quasi con desolazione i più intimi, a non voler seguire assolutamente la figlia e il genero nella casa di Sant'Antonio, malgrado la cara Elmina avesse fatto approntare da tempo, al piano di sopra, due belle stanzette con certi mobili dorati del pallonetto. In questo il notaro si era sbagliato, qualcosa gli era rimasto, e in più lasciato a disposizione torretta e terrazza per i suoi giorni di nuvolo. Mai Don Mariano, anche prima di ricevere le chiavi di Chiaia, e come abbiamo visto neppure dopo, si era rassegnato ad accettare, se non con grande strazio, un trasloco. Sembrava che là, nella vecchia casa, fosse rimasta l'anima sua, dai tempi stessi in cui aveva conosciuto la signora Helm, e alla fine si era ridotto a obbedire, di notte, piangendo, solo a una ingiunzione del tribunale, ma portando con sé la scatola preziosa, bucata persino e legata con brutti spaghi, di quelle che erano facilmente ritenute, tanto la custodia era leggera, le poche lettere d'amore della signora Helm a lui. Cose queste che ci sembra anche più facile perdonare. E da quelle lettere e da quella casa, dono del principe, da allora non si era allontanato più, nemmeno per andare a trovare i figli. Sedeva in anticamera tutto il giorno, e in quella elegante sala, fra specchi e consol dorate, aveva fatto sistemare una brandina, mentre su una sedia erano appoggiati una ciotola per l'acqua e un piattino per il mangiare che la portinaia andava a ritirare ogni giorno, estrema miseria, alla trattoria sotto casa. La scatola, in genere, era posta presso la brandina, e qualche volta, come riferì la portinaia a un'amica, gli spaghi risultavano smossi, segno che le lettere preziose nottetempo ne uscivano per una accecata lettura di memorie al lume della candela o della luna che brillava sul mare. Altro non ci sentiamo di aggiungere, e forse non è necessario, per dire lo strazio di quella vecchiaia, insieme al declino dell'affabile intelligenza, la benevolenza e la grazia di quel signore e lavoratore eccezionale, una volta scomparsa colei che egli riteneva, sbagliando o meno, essere stata la sua moglie adorata. Si può dire che pure l'affetto per la figlia ne fosse uscito appannato, ed egli infatti non mancava mai di rispondere al di lei dolce «Come state, babbo?», quando ella veniva a trovarlo con uno stanco «Starei meglio se fossi morto, figlia mia». «Papà, non dite così», gli diceva tremando la poverina. «E tu, figlia mia, puoi promettermi, te la senti davanti a Dio, di fare il tuo dovere quando io non ci sarò più?» «Papà, voi camperete 100 anni. E tu, Elmina, mi prometti che dopo questi 100 anni farai ancora il tuo dovere? Me lo prometti, figlia mia?» «Papà, io morirei se non facessi il mio dovere. Solo gli angeli me lo possono impedire, ma non lo fanno». Era la dolente e pur sempre sibillina risposta. Detto ciò, a volte la poverina si appressava alla scatola, sfiorandola con la preziosa manina che aveva reso così fuori di mente il principe, e indugiava in una carezza piena di devota appassionata mestizia. Che le lettere fossero, dopo la sua morte, sottratte a crudeli curiosità di eredi e forse semplici conoscenti, sembrava la disperata ossessione di Don Mariano. E perché mai egli non si decidesse a distruggerle, salvandole così, mentre era ancora in vita, dal peggio o dal meglio dei giorni futuri, questo può comprendersi perfettamente da chiunque viva di ricordi e sopravviva solo a causa dei ricordi. Erano quelle lettere, per ora non possiamo chiamarle che così, il suo unico respiro. Ma chiaramente l'animo di Don Mariano era ormai malato, e alla figlia non era dato il bene, secondo un'ottica egoistica, di ignorarlo, perché non dimenticheremo che suo padre era anche il suo vero Dio.